24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 54 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo giovedì 14 maggio. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, buongiorno, ci siamo. Buongiorno Simone, e come al solito diamo un'occhiata a quello che scrivono in questo caso il quotidiano The Guardian in Gran Bretagna, che riferisce delle accuse contro il governo britannico che avrebbe nascosto la realtà delle morti per Covid-19. Il Covid-19 potrebbe aver ucciso 22.000 residenti, cioè più del doppio di quello che le cifre ufficiali hanno rivelato. Mentre invece per Le Figaro si tratta di fare un bilancio dei 3 anni di Macron, che è una sfida grossa adesso, vedere come gestire il dopo Covid-19. La stessa sfida di fronte alla quale si trova Conte. E oggi c'è un articolo sulla Stampa che torna a evocare la possibilità di elezioni anticipate se non dovesse reggere questo governo. Non molti ci credono, e anche il fatto che nei giorni scorsi, per esempio, Conte abbia ricevuto una delegazione di Italia Viva, personalmente mi convince sul fatto che, al di là delle minacce che ogni tanto tornano ciclicamente di abbandonare la maggioranza, anche Italia Viva abbia non succede niente, diciamo che forse l'attenzione in questo momento, se proprio vogliamo vedere l'aspetto politico, mi pare concentrata sul travaglio interno al Movimento 5 Stelle, questa divisione. Sì, ma anche lì non succede niente. Sì, sicuramente, però insomma diciamo, cioè, no, cioè, sotto traccia questa divisione tra i cosiddetti sovranisti e quelli invece un po' credo? Più a sinistra. Che ogni tanto ci facciano, come dire, assistere a una rappresentazione, no? Le divisioni tra le correnti e i governisti e quelli che invece governisti non sono e vorrebbero tornare alla purezza delle origini. In realtà, esattamente come gran parte dei senatori di Italia Viva difficilmente tornerebbe all'opposizione, men che meno alle elezioni anticipate, perché nessuno ha la sicurezza di essere rieletto, sì. Così pure nel Movimento 5 Stelle, secondo me, ci fanno molta attenzione a far cadere il governo. Ma e sì, anche quelli che non sono d'accordo con la linea governista, alla fine vedo difficile abbozzano. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, bentornato, come sta? Buongiorno. Bene, grazie, buongiorno. Senta una cosa, allora, dato che se ne fa un gran parlare in questo periodo, da voi le mascherine non sono mai mancate e le avete distribuite gratis. I reagenti per i tamponi ce li avete? Ci spiega come avete fatto innanzitutto? No. Calma, ora, per le mascherine è vero che ci siamo subito adoperati, abbiamo costruito una filiera toscana che è in grado di produrre fino a 1,5 milioni di mascherine, che abbiamo fatto testare dall'Università di Firenze, che risultano essere per certi aspetti persino migliori rispetto a quelli certificati CE. Invece poi le abbiamo distribuite, noi per esempio ieri stesso abbiamo distribuito 1.800.000 mascherine. La dimensione per rifornire i cittadini di mascherine è questa, ecco, in Toscana sono 3.700.000 cittadini. Lei capisce che se ne rifornisce meno di un paio di milioni al giorno, quella mascherina, almeno una mascherina a persona necessaria, è difficile garantirla. Per cui quando leggo anche i numeri nazionali va benissimo, ma non sono quelli i numeri che possono tornare. Quindi sulle mascherine ok, poi abbiamo incontrato tante difficoltà nella distribuzione, ovviamente adesso sono le farmacie, forse le farmacie vorranno smettere, bisognerà trovare altre soluzioni. Invece per i tamponi la situazione è difficilissima anche da noi. Poi bisogna distinguere, il tampone è lo stick, quello che si mette nel naso e nella gola per fare il prelievo, e poi dopo il tampone ci sono altre due fasi, che sono gli estrattori e gli amplificatori. Ecco, il mondo è veramente un po' strano. Abbondiamo di forniture anche noi di stick per fare l'estrazione, siamo abbastanza riforniti di amplificatori, che sarebbe l'ultima fase del processo per l'esito positivo o negativo, invece siamo assolutamente carenti di estrattori. e su questo insomma cerchiamo di rimediare in mille modi, cercando rapporti con altre imprese, provando a testare anche altre soluzioni. Ci sono state presentate, però la difficoltà è davvero grossa. Noi abbiamo ben Presidente, mi scusi, alla luce dell'esperienza di questi mesi, e molto brevemente, se lei dovesse dire che cosa sarà urgente fare per la sanità italiana, lei conosce la sua, quella toscana, ma insomma i problemi credo che ve li scambiate tra presidenti di regione, ammesso che i soldi del MES che arriveranno proprio per la sanità arrivino davvero e che noi li vogliamo prendere. Ecco, le cose che abbiamo sbagliato in questi anni o abbiamo trascurato in questi anni sul fronte della sanità e che ora, invece dovremmo tenere presente. Il decreto rilancio prevede una massiccia assunzione di personale sanitario, e questa è già una cosa interessante, ma forse bisognerà anche tornare a fare un piano sanitario pubblico. Assolutamente, le cose che ha detto lei, l'errore fondamentale sono stati i tagli alla spesa sanitaria che sono andati avanti da oltre 10 anni a questa parte, e quindi questo senz'altro ha prodotto anche una riduzione di personale. Lei pensi che con tutte le riassunzioni che stiamo facendo non siamo tornati ancora al personale che avevamo una decina di anni fa? Solo per darle una dimensione di come sono stati così pesanti i tagli e contingentamento delle assunzioni. Oltretutto fa bene anche di nuovo il decreto, perché nel decreto c'è il problema degli specializzandi. Ci sono interi settori della sanità che sono stati potenziati. Si ricorda, parlavamo una volta, eravamo piccoli insomma, ma sentivamo parlare di pletora medica. Ecco, la pletora medica va in pensione e quindi c'è veramente qui di nuovo un rischio fortissimo di assenza di medici, di carenze in alcuni settori particolari. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci in condizioni per cui se dovesse capitare quello che è già capitato, non dovremmo andare alla chiusura dell'attività normale sanitaria. Quindi potenziare le terapie intensive, cosa che stiamo facendo dovunque, noi in Toscana abbiamo fatto, sollecita anche il DPCM, e potenziare le cure diciamo ad alta intensità, quelle almeno i posti letto con ossigeno, in tutto il territorio nazionale. Ciò che viene detto è ciò che in Toscana stiamo facendo, allo scopo di evitare che se dovesse riprendere la pandemia, il virus dovesse circolare, il Covid-2, e quindi ci fossero più malati, noi potessimo curarli senza evitare l'attività, di ridurre l'attività di lezione, come si chiama, la cardiologia, l'oncologia e tutti gli altri settori, la prevenzione anche in altri settori. Perché guardi, c'è un punto su cui ci bisognerà riflettere, e cioè che questa sospensione da oltre 2 mesi dell'attività, questa ripresa che adesso sarà lenta, ma poi la domanda, quando i cittadini capiranno, aumenterà tantissimo, ha prodotto anche in tanti settori una mortalità che registreremo presto non essere stata affatto bassa. Ho visto, parlavano della cardiologia, ecco, vedremo, stanno facendo per ogni settore quanto l'allontanamento dalle normali cure ha prodotto mortalità, certo, questo cattiva salute nella popolazione. Quindi finisco, bisogna dotarci assolutamente di terapie intensive e di terapie medie, in modo che se ci fosse poi una ripresa del fenomeno si possa continuare. Si sia pronti in poi, sostanza, Rossi. Bisogna essere in condizione di isolare ogni nuovo caso. Questo è il punto vero. Anche qui il Ministero si sta comportando in maniera corretta. Senta, in un caso bisogna ricostruire il quadro epidemiologico e metterli tutti in quarantena immediatamente. Una domanda rapida, e poi arriveremo alla parte dedicata a fase 2 e turismo con Firenze, ma anche con le vostre spiagge, Rossi. È una domanda rapida ancora su una questione più o meno sanitaria. C'è stata un po' di polemica, e lo sa perfettamente, per questa scelta da parte del governo di mettere Pisa come capofila della sperimentazione per la cura al plasma. E il dottor De Donno, che è quello di Mantova, insomma, che sta un po', che è un po' apparso da tutte le parti, ha detto è stata una scelta politica. È circolata nelle scorse ore la voce che lei sarebbe pronto a querelarlo. Ma insomma, non è che tutte le volte quando non si sa di dove attaccare il cappello vuol dire che è colpa della politica. Chi, quando, dove, ci diano un'informazione. Io ho moltissima stima di Pisa, del centro di infettivologia di Pisa, del primario, dell'equipe che lì lavora, e poi c'è stato intorno a questa equipe la costruzione di una rete regionale. Infatti mi risulta che alla fine fossero due, insomma, le linee. Una era quella più... Ma quindi lo querelate De Donno oppure no, Rossi? Ma insomma, vediamo ora, se continua a dire che c'entra la politica, io non c'entro assolutamente. Ho fatto una visita al centro di Pisa per congratularmi per il progetto che stavano facendo e soprattutto per la capacità di avere messo a rete tante regioni. Questa è la particolarità, il successo, secondo me, che sta dietro alla scelta da parte... Quindi è un vedremo. Passiamo al turismo, allora. Dire attenzione, comunque ho dato le carte all'avvocatura, quale politica si riferisce a quella regionale. Noi non c'entriamo assolutamente nulla in questo paese. Okay. Quando uno perde un concorso dà colpa alla politica, insomma, non è sempre vero. Non è sempre vero. Senta, le posso chiedere, grazie, Presidente, Se può avvicinarsi un po' al telefono, perché almeno io la sento un po' lontana. Forse un pochino meglio. Ascolti, Presidente, a proposito delle spiagge toscane, ma anche delle grandi opportunità che le città d'arte toscane hanno sempre avuto rispetto al turismo, da Firenze a Siena, ma tutta la Toscana. Ora, il governo è al lavoro per creare delle partnership turistiche, soprattutto con la Cina, la Russia e la Germania, che sono bacini enormi per il turismo. Intanto l'Europa va ognuno per i fatti suoi. L'Austria apre alla Germania, Germania e Francia riapriranno le loro frontiere, i paesi dell'est hanno riaperto le loro frontiere per i fatti loro, quindi dall'Europa ciascuno decide per conto suo. Le chiedo, lei è al corrente del lavoro che si sta facendo per far tornare i turisti tedeschi, russi e cinesi? In particolare a voi interessano i russi, che adorano Forte dei Marmi. Anche molti americani nelle città d'arte sicuramente, e non solo loro, olandesi pure, ma il governo fa benissimo. Vediamo quali saranno i risultati. Intanto con amarezza notiamo di nuovo questa frattura tra l'Europa del nord e l'Europa del sud, e questo non è bene. Quindi la Commissione europea dovrebbe, deve subito intervenire, stabilire regole uguali per tutta l'Europa. Per il resto, benissimo le iniziative del governo, io mi auguro che siano efficaci. Noi, per quello che ci riguarda, pensiamo sostanzialmente a due cose. Prima di tutto, credo che bisogna rilanciare l'immagine della Toscana. Questa crisi azzera sostanzialmente il marchio di tutte le realtà. Noi abbiamo un brand altissimo, che anche questa crisi rafforza. La Toscana, in fondo, da questa vicenda del coronavirus esce dimostrando di averlo saputo affrontare. La Toscana è una grande regione, ci sono grandi spazi, è fruibile in tutto il suo territorio, è una regione pulita, è la regione... Presidente, ma se si continua a fare... Mi scusi. Importante. Prego. Mi perdoni, ma se si continua a fare il gioco della Toscana, del Lazio, della Puglia, e non si lavora insieme come paese, mi perdoni, ma contro giganti che poi lavorano per i fatti loro, come la Francia o anche come la Grecia, che sta lavorando per sé tutta, non ce la fate. Mi chiedo sempre, ma siccome il Covid... Io sono d'accordo con lei, ma bisogna che sia il governo a chiamarci. Io una volta ho visto la Spagna a vendersi, in Spagna c'è una bellissima, c'è un bellissimo marchio di promozione della Spagna. Poi questo non esclude che ci siano anche le regioni, che in Spagna hanno molti più poteri di quanti non ne abbiamo noi in Italia, si figuri. però c'era la Spagna e addirittura con il suo sovrano a promuoversi, quindi sia il governo a fare un'iniziativa di promozione di carattere nazionale, a noi va benissimo, non abbiamo nessuna... Allora mi permetto ad esempio di fare una proposta che potrebbe essere una proposta nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale ha dimostrato complessivamente di saper far fronte. Una delle cose forse importanti sarebbe garantire a chi viene dalla Russia e dagli Stati Uniti che in caso di malattia noi curiamo praticamente queste persone. Potrebbe essere questo un vantaggio che mettiamo in campo e che giochiamo poi io non capisco, non capisco perché... diciamo due terzi dell'Italia non è stata molto colpita dal Covid. Abbiamo regioni come la Basilicata, ma la stessa Campania, anche la Toscana, che hanno dei livelli diciamo più o meno pari a quelli della Grecia, generalmente parlando. Ora la Grecia dice venite da noi a fare turismo perché noi abbiamo saputo gestire il Covid-19. Non capisco perché non possa dirlo anche l'Italia, che a parte alcuni casi molto, diciamo, definiti nel nord, per il resto non ha avuto questo attacco del Covid. Discorso, ma non siamo capaci di comunicarlo, questo Presidente. È precisamente il discorso che provavo a fare io riguardo alla Toscana, se viene fatto a livello nazionale. Io so benissimo che per noi arrivare fuori dall'Europa è molto difficile. La dimensione toscana è una dimensione, è un marchio insieme a quello di Firenze che possono vantare pochi in Italia, Venezia probabilmente, sicuramente Venezia, Roma, magari Napoli, la stessa Sicilia è conosciutissima. Il governo deve provare a mettere tutti insieme e poi a saper promuovere anche dal punto di vista della tutela sanitaria. Sì. Insisto, se noi dessimo la possibilità a chi dagli Stati Uniti, dalla Russia e da altri paesi ormai del mondo viene a passare le vacanze in Italia e in Toscana di avere una copertura sanitaria, io penso che questo potrebbe essere di questi tempi di pandemia a livello mondiale potrebbe essere un vantaggio interessante. Notevole, interessante. Notevole, sì. Insomma, secondo me potrebbe far riflettere chi ha deciso se recarsi in Italia oppure se recarsi in un altro paese dove se ti capita di avere una malattia o hai soldi in tasca e il portafoglio pieno oppure non hai... Oppure niente. Rossi, veramente in 20 secondi siamo in chiusura, 20 secondi abbiamo. Da voi si deve votare, quando vuole votare lei? Ma lascio questa decisione al governo. Però un'idea ce l'avrà, no? Un'idea ce l'avrà, sì, no? A luglio. Ci sono diverse opinioni, quella di luglio, quella di settembre. E la sua qual è? Quella di luglio è molto vicina, perché poi ci sono due turni, quindi noi dovremmo votare addirittura il 12 di luglio. E quella di settembre dovrebbe essere proprio nei primi tempi, perché insomma andare oltre non mi sembra... Quindi primi di settembre, la sua opzione è primi di settembre. Non lo so, credo sì, sarebbe avvicinarsi al periodo di... Ora mi sembra troppo vicina questa vicenda, la gente ha altre cose in testa e credo che andare a fare una campagna elettorale, la politica rischia di avere la testa rivolta ad altro e di dare una brutta impressione. Meglio i primi di settembre. Di avere poche persone al voto, ecco, questo è il punto. Quindi però non si deve aspettare troppo perché l'esercizio democratico è una cosa seria e poi... perché dalla lettura anche di ciò che dicono i virologi, gli epidemiologi, parlano di una possibile recrudescenza del virus proprio nel periodo autunno. In autunno, quindi la finestra di settembre, la ringraziamo. Settembre, piena settimana di ottobre, non ho. Mi pare è ciò su cui si interroga entrambi anche il Parlamento e il Governo. Grazie Enrico Rossi, Presidente della Toscana, per essere stato con noi. Una pausa e poi andiamo con la Ministra Bellanova, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Ed eccoci con Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di Italia Viva. Bellanova, bentornata ai nostri microfoni, eccoci. Grazie, bentrovati. Maria, prego. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ministro. Buongiorno a lei. c'è una reazione un po' fredda da parte di molte associazioni rispetto alla regolarizzazione dei migranti decisa dal governo. Secondo Coldiretti, per esempio, la norma arriverà tardi e quando i migranti saranno regolarizzati nelle campagne la raccolta sarà già finita. Non era più utile organizzarsi come in Germania e in Gran Bretagna, e cioè prevedere dei charter che prendessero operai specializzati, gente che l'ha già fatto? Gli agricoltori avrebbero apprezzato, tant'è vero che qualcuno si è organizzato da solo. Martedì parte un charter da Pescara per Casablanca per prendere operai specializzati. Non potevate aiutare gli agricoltori a fare questi corridoi aerei come hanno fatto Gran Bretagna e Germania? Guardi, come hanno fatto Gran Bretagna e Germania, si può fare, perché come dire, io su questo mi sono molto impegnata, anche se atteneva a competenze del Ministero del Lavoro, di altri ministeri, ma combattendo per avere i corridoi verdi per quanto riguarda le merci, ho rivendicato con più occasioni con la Commissione europea avere anche i corridoi verdi per le persone. Il punto è che in Germania questi viaggi sono stati organizzati dalle stesse imprese, perché parliamo di imprese grandi, e comunque per un numero non molto ampio di persone, e comunque in una condizione in cui si è determinata non poca polemica e ricadute anche dal punto di vista sanitario. Ora, io credo che noi dobbiamo lavorare per risolvere le questioni. I corridoi verdi ci sono, bisogna avere le persone disponibili a salire su quei voli charter, bisogna sapere che ci sono dei costi dei quali bisogna farsi carico, perché nel momento in cui queste persone arrivano in Italia, un paese dove c'è in questo momento ancora l'impedimento alla mobilità tra regione e regione, noi andiamo a prendere delle persone che stanno in zone dove sono state dichiarate zone rosse in Romania. Io fino a ieri ho parlato anche con il nostro ambasciatore in Romania, con l'ambasciatore rumeno in Italia, i rapporti del mio consigliere diplomatico sono costanti, e ci sono zone in Romania dove è dichiarato in questo momento ancora il coprifuoco. Una di queste zone è proprio dove sta l'aeroporto da dove partono i charter, quelli che sono andati anche in Germania. Noi dobbiamo sapere che livello di tensione rischia di crearsi, perché portare in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, in Emilia-Romagna, persone che vengono da una zona rossa con la dichiarazione di coprifuoco per venire a lavorare è sicuramente una cosa legittima. Bisogna farsi carico di mettere queste persone in quarantena e quindi di andare avanti per 15 giorni in questa condizione. Allora, io non dico che questo non è possibile, dico che questo strumento da solo non è esaustivo. Se le organizzazioni continuano a voler organizzare questo, per me va benissimo. Lavoriamo, il Ministero del Lavoro so che ha fatto un incontro con la Ministra del Lavoro, credo che stanno portando avanti questi rapporti, ma di questo stiamo parlando. Cioè, non è che siamo in una situazione dove andiamo, prendiamo persone che sono disponibilissime a venire e abbiamo risolto. Dobbiamo convincere le persone a venire, dobbiamo mettere in una situazione di quarantena, dobbiamo farci carico dei costi e sapere che questo è un aggravio per tutti. Io ho cercato di dare una mano mettendo a disposizione anche altre possibilità, dopodiché ci tengo a chiarire a voi, agli ascoltatori e anche alle associazioni, che io sono la persona che da mesi sta combattendo per dire che il caporalato non è frutto delle imprese e non di tutte le imprese. Ci sono delle imprese che si rivolgono al caporale perché vogliono competere nella irregolarità, ci sono delle imprese che sono costrette perché non trovano persone con permessi di soggiorno regolari, perché non trovano persone che possono metterli in condizione di far fronte al loro bisogno di campagna di raccolta. Sì, però Ministra, qua abbiamo sempre le stesse associazioni datoriali che dicono che questa regolarizzazione, questa emersione del lavoro nero e questa regolarizzazione di una parte dei migranti porterà scarsi benefici in termini di persone che andranno a lavorare nei campi, andranno a occuparsi dell'agricoltura. Cioè, parlano di addirittura Coldiretti 1.500-2.000 persone sulle 200.000 200.000 che servirebbero. Ma sulle 200.000 che servono sono il lavoro che dobbiamo fare, appunto individuando tra le persone che devono avere un permesso di soggiorno per lavoro, perché sono persone che lo hanno fatto anche negli anni passati, che forse lo stanno facendo anche in questo momento, senza avere però il diritto loro ad avere un rapporto di lavoro regolare e le imprese ad avere una situazione di regolarità senza essere sottoposte al rischio del caporalato. Ma sulla questione dei numeri, è evidente che non servono tutti contemporaneamente, è evidente però che noi andiamo incontro alle grandi campagne di raccolta dove c'è bisogno di avere più manodopera. Abbiamo fatto, io stessa mi sono fatta promotrice di una proposta verso il Ministero del Lavoro del dire rendiamo compatibile il sussidio del reddito di cittadinanza, dell'indennità di disoccupazione con il lavoro stagionale per un certo numero di giornate, per 30 giornate è prorogabile per altre 30. Su questo diciamo è un lavoro che si sta facendo, è un pezzo importante, è fatto anche in sintonia con le associazioni, dopodiché io credo che le associazioni non debbano farsi spaventare da questi numeri che circolano. Io non ho mai detto che 600.000 persone regolarizzate servono all'agricoltura. Ho sempre detto che c'è un pezzo di lavoro agricolo che è illegale, un pezzo perché le aziende scelgono, un altro pezzo perché le aziende sono costrette non avendo alternativa di permessi di lavoro regolari o di persone disponibili a fare questo lavoro. Agli italiani non è mai stato impedito di andare a lavorare in agricoltura. Adesso continuiamo a fare questi appelli, ma non possiamo obbligare le persone ad andare a fare un lavoro piuttosto che un altro. E quindi dobbiamo agire su tutti gli strumenti che possiamo avere a disposizione e dare alle persone che invece vogliono farlo questo lavoro il diritto di farlo in modo legale. Questo è il punto. Dopodiché in Italia ci sono centinaia di migliaia di persone che lavorano nelle nostre case, che si prendono cura dei nostri anziani, dei nostri figli, che accudiscono le nostre dimore. A queste persone noi dobbiamo dare il diritto di vivere in modo legale e alle famiglie dobbiamo dare il diritto di poter tenere la persona che si prende cura degli affetti più cari in una condizione di legalità. Perché bisogna contrastare questo? Non è un dire che tutto il lavoro nero viene dall'agricoltura, io lo so benissimo, so che c'è anche un pezzo di lavoro nero in edilizia, come so che c'è un pezzo di lavoro nero nella logistica, perché non è che quando succedono fatti di cronaca scopriamo che ci sono cooperative false che utilizzano gli immigrati che non sanno neanche di essere iscritti ad una cooperativa e vengono sfruttati brutalmente. Allora chi governa ha il dovere di farsi carico anche di queste cose scomode, perché vorremmo non conoscere, vorremmo non sapere, e invece abbiamo il dovere di conoscere, di sapere e anche di dare delle soluzioni. Senta, Ministro, ieri lei nel comunicare appunto che era stato raggiunto un accordo all'interno del Consiglio dei Ministri si è commossa. Qualche giornale ha messo in relazione le sue lacrime con quelle di Elsa Fornero e le chiedo se questo abbinamento la convince, le piace. Qualcun altro, per esempio anche Salvini, ma qualcun altro ha detto ma era un provvedimento elettorale, insomma sostanzialmente la Bellanova si è commossa per poi portare a casa dei voti. Sì. Cosa dice dell'abbinamento con la Fornero e di quelli che dicono è stata una finta, mettiamola così. Salvini ha anche detto pianga per gli italiani prima che per gli immigrati, ha detto. Mettiamolo così, immagini se mi avessero confrontata con Salvini. Cioè? Quella sì mi avrebbe fatto, diciamo, davvero molto male. La professoressa Fornero è una persona di grande competenza, di grande professionalità, che io rispetto, con la quale pensiamo su alcune questioni anche in modo differente le soluzioni, ma... non è un confronto con la professoressa Fornero che mi imbarazza, mi avrebbe imbarazzato molto un confronto con Salvini, e quindi diciamo penso che questa possiamo chiuderla in questo modo. Dopodiché io so che i sentimenti sono un fatto privato, ci sono dei momenti in cui non si riesce a governarli e per me ieri è stato un momento di questi, ma non è di questo che ho intenzione di discutere. Questo immagino anche per la sua storia, non ne vuole discutere, però immagino che anche sia collegato ovviamente alla sua storia. Siamo credo il frutto della nostra vita, della nostra storia, e chi non sente questo, evidentemente le cose che fa le fa da mestierante. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di avere momenti difficili, momenti complicati, ma di fare le cose che ho voluto fare con grande passione, e ieri, come dire, tutto questo mi si è palesato in un momento in cui ero nella condizione di poter dire che si migliorava la vita degli altri. Maria, prego. Bene, tornando alle questioni relative appunto al decreto, da quello che è emerso dal decreto, la cassa integrazione è una cosa che diciamo esula dalle sue competenze, ma insomma anche la cassa integrazione, anche tutti i provvedimenti per gli altri lavoratori sono stati al centro di tira e molla notevoli. In generale, da 1 a 10, Ministro, lei che voto dà alle misure che sono state prese dal governo per venire incontro ai bisogni dei tanti italiani che se la passano male per il coronavirus, per le chiusure che sono state dettate dall'emergenza sanitaria? Guardi, io non devo dare i voti perché io faccio parte del governo e devo assumere su di me la responsabilità della proposta. C'è stato molto confronto, sicuramente io avrei voluto delle misure più dirette, come il sostegno alle imprese con interventi diretti piuttosto che tante misure, ma mi rendo conto anche che in un momento in cui fai la scelta giustamente di bloccare i licenziamenti, devi investire una parte di risorse per sostenere il reddito di quei lavoratori, perché non puoi dire alle imprese ti blocco, non puoi lavorare, devi tenere però le persone, non le devi licenziare e non ti do le risorse per la cassa integrazione. Semmai, cosa che ho consigliato ancora ieri a tutti i miei colleghi, è quelli di avere una grande attenzione rispetto a questa misura, perché i lavoratori non devono aspettare e non bisogna scaricare sulle imprese una tensione che non appartiene alle loro dinamiche. In questo momento noi abbiamo il dovere di aiutare a lavorare anche in armonia nei posti di lavoro, perché le persone sono cariche ancora di tensioni, sono cariche di paura, e noi non dobbiamo aggravare questa situazione, dobbiamo fare ogni sforzo per mettere le imprese nella condizione di poter ripartire davvero e di ricominciare a competere, e i lavoratori e le lavoratrici di lavorare in sicurezza. Dico questo perché molti hanno guardato con superficialità anche quella battaglia che io stesso ho portato avanti nel dire investiamo per rendere sicuri i luoghi di lavoro e apriamo il prima possibile. Non era disattenzione alla salute delle persone, anzi era un'attenzione a dire che noi dobbiamo uscire da questa gravissima emergenza con le persone che devono poter continuare a lavorare e ad avere una vita dignitosa. Più tu tieni chiusi i luoghi di lavoro e più perdi in competizione, più le aziende dirottano da altre parti le loro commesse. Noi questo è un lusso che non potevamo e che non possiamo permetterci, e allora ogni risorsa deve essere destinata per rendere sicuri i luoghi di lavoro, per lavorare in garanzia per le imprese e per i lavoratori, ma anche per dare risorse alle imprese che hanno la possibilità di riprendere a competere, di farlo e di farlo rapidamente, perché al di là delle belle frasi usciremo più forti da questa crisi, noi ne usciamo indeboliti fortemente, sì. E adesso abbiamo bisogno di riprendere, puntando su quei campioni nazionali che siano grandi o piccole o piccolissime imprese, ma che hanno investito negli anni in innovazione, in ricerca, e che hanno prodotti che possono riconquistare il gusto dei mercati, consumatori. I mercati. Certo. Senta, Ministra, per rimanere nel suo, c'è anche uno stanziamento per il settore agricolo nell'ordine del miliardo, se non vado errato? Nell'ordine di 1.150.000.000 che si aggiungono al tutte le misure che orizzontali che sono state fatte per tutti i settori, e dove ho voluto che si specificasse a cosa saranno destinati, a cosa saranno destinati, a cosa saranno sarà destinato destinati questo miliardo? A quelle filiere che in questa fase, anche nella fase in cui il settore agricolo, molti pensano, è stato aperto e quindi ha guadagnato, e invece il settore agricolo e l'agroalimentare è stato aperto, ci ha messo tutti in condizione di avere normalità per poter continuare ad avere le nostre abitudini alimentari, e però avendo chiuso i ristoranti, i bar, le enoteche, ci sono pezzi importanti della filiera che sono andati in difficoltà, come il settore del vino, che non avremmo mai immaginato che l'avremmo affrontato come un settore in crisi. E invece tra le difficoltà sul commercio internazionale e la chiusura della catena dove venivano collocati i prodotti di maggiore qualità, oggi questo è un settore che è in difficoltà. Io sto destinando 100 milioni di euro per intervenire specificamente in questo campo, così come il florovivaismo, dove i fiorilegisti sono stati distrutti e tante piante sono state non collocate perché era la fase in cui marzo e aprile il 70-80% del fatturato delle imprese del florovivaismo sarebbe stato realizzato, così come nella filiera per esempio dei formaggi DOP o delle carni, ecco, diciamo in quelle filiere che hanno avuto una grossa difficoltà per causa dell'emergenza virus. Ministro, e poi 250 milioni destinati all'ISMEA per intervenire sull'accesso al credito con garanzia totale da parte dello Stato. E se c'è ancora un secondo, vorrei dire che c'è un provvedimento al quale ci tengo molto, 250 milioni di euro destinati al fondo indigenti, perché questa vicenda, questa fase di emergenza sanitaria ci ha squadernato davanti una situazione che è ancora più grave. Tante famiglie non solo di anziani, di persone che già erano collocate ai margini dell'accesso al cibo, tante famiglie, anche il cosiddetto ceto medio, di giovani ragazzi che facevano si le sono trovate in difficoltà. Si sono trovate in difficoltà. 250 milioni di euro destinati ad acquistare. Mi dà un'idea, prego. Mi perdoni, mi dà un'idea del percorso del governo, perché voi avete incontrato Conte ieri. Rosato del suo partito Italia Viva ha detto in un'intervista ad Affari Italiani che la tensione nella maggioranza è rientrata, però c'è sempre Renzi che dice ma non so se voto o non voto contro Bonafede. Mi faccia capire, il governo Conte per Italia Viva deve andare avanti, sì o no? Secca. Renzi dice una cosa semplicissima. Secca, secca, no ministra, sì, secca. Il che abbiamo... governo va avanti se risolve i problemi. Grazie Teresa Bellanova, grazie. Maria, purtroppo sta finendo il tempo, non è che ci possiamo fare niente. Maria, ci sentiamo domani 8:20, tra l'altro a avremo domani, ospite domani. Matteo Salvini. A domani, ciao.